24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:31 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9 e oggi nel nostro sondaggio, che potete già votare su radio24.it nell'home page bianco o nero, parliamo di intercettazioni, il disegno di legge approvato al Senato con la fiducia, con le polemiche e i giornali, con il sindacato dei giornalisti che dice bisogna listare a lutto i giornali a partire da oggi. Siete d'accordo con questa visione molto molto dura, cioè è un bavaglio alla stampa totale, la morte addirittura della libertà di stampa? Dovete votare lì e appunto andiamo a sfogliarli questi giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta in primo piano. Venerdì 11 giugno, devo dire subito che i giornali listati a lutto in maniera evidente sono pochi. C'è il Fatto Quotidiano, questo è un giornale listato a lutto per il colpo mortale inferto alla libertà dei cittadini espropriati del diritto inalienabile di sapere. C'è l'Unità, che è chiaramente listata a lutto nella sua testata. Ci sono, credo, anche i telegiornali di Sky TG24, non ovviamente come quotidiani, però certo ci sono, come listate a lutto, c'è molto nero nelle vignette. Vauro sceglie appunto una vignetta tutta nera sul Manifesto, con una persona che viene strozzata in qualche modo e non riesce a parlare, il bavaglio proprio alla libertà di stampa. Ma comunque ci sono tantissimi commenti, soprattutto critici, e tanti titoli su questo tema intercettazioni, sì tra le accuse per il Corriere. La Repubblica fa una scelta editoriale invece diversa, ma anche questa di impatto visivo. Tutta la prima pagina è bianca con un post-it giallo, quello dei post-it. La legge bavaglio nega ai cittadini il diritto di essere informati, con Ezio Mauro che nella seconda pagina il perché di una pagina bianca. E poi invece c'è, dopo che si apre questa pagina tutta bianca, c'è la prima pagina, quella vera, rivolta contro la legge bavaglio. La Stampa, intercettazioni sì del Senato, così come il Messaggero, sì tra le tensioni. Il Sole 24 Ore apre sulle pensioni delle statali, le nuove pensioni delle statali come apertura, ma certo in prima pagina c'è uno dei tantissimi commenti che oggi trovate. Io ne scelgo due o tre, perché poi approfondiremo alle 8:30, ma poi non c'è giornale che non abbia commento, il commento principale dedicato a questo tema. Per il Sole, la privacy ostaggio del grande freddo, questo è il titolo dell'editoriale non firmato per la verità in prima pagina. Il disegno di legge approvato dal Senato sulle intercettazioni naturalmente non è la morte della libertà, neppure il nuovo fascismo, si legge. L'esagerazione e gli estremismi sempre fuori luogo diventano stavolta ancora più pericolosi. Però, in nome di valori seri come la privacy e il rispetto dei cittadini, si è finito non solo per rallentare ma ostacolare la strada delle indagini contro la malavita, ma soprattutto diffondere un grande freddo contro le cronache, i giornalisti e i loro editori. Ecco dunque la critica. Non va bene. Al governo Berlusconi, cui non mancano le priorità in una drammatica crisi che avviluppa aziende, professionisti e lavoratori e che, come ha spiegato spesso anche Tremonti, non sarà né breve né indolore. Inutile girare intorno alla questione. Privacy dei cittadini e responsabilità dell'informazione sono temi cruciali. La prima va tutelata, la seconda praticata sempre con serietà, e se quando venisse a mancare, chi sbaglia deve pagare. Ma certo, questa stretta al diritto di cronaca in questo fondo di prima pagina del Sole 24 Ore non piace. Così come detto Repubblica, la prima pagina tutta bianca, Ezio Mauro, il direttore, a pagina 2 scrive il perché di una pagina bianca, perché parla di violenza della maggioranza, voler limitare fino all'ostruzionismo irragionevole l'attività della magistratura nel contrasto al crimine. E poi, tra l'altro, conclude questo editoriale in seconda pagina, anche qua tutto d'impatto, con tutto il contorno bianco: tutto ciò non è accettabile, non dai giornalisti soltanto, ma dai cittadini, dal sistema democratico. Ecco perché la prima pagina di Repubblica è bianca, per testimoniare ciò che sta accadendo e per dire che non deve accadere e non accadrà. Questo "e non accadrà" è molto molto forte, di Ezio Mauro. Bianchi escono oggi anche Massimo Gramellini e Iena, le due rubriche in prima pagina e terza, il Buongiorno di Massimo Gramellini e di Iena, che invece di solito fa il suo graffio a pagina 3. Buongiorno e Iena escono oggi in bianco per abituarsi a quanto la legge sulle intercettazioni impedirà loro di affrontare gli argomenti che nutrono da sempre i corsivi di satira e di costume. Insomma, le scelte sono queste: chi a lutto, chi bianco. Chi invece, come Giuliano Ferrara, fa un editoriale in prima pagina del Foglio molto duro, firmato dall'Elefantino, difendere il pudore. Delle intercettazioni in un paese di mafia c'è bisogno. Sono importanti anche nella guerra al terrorismo. Ma qui non è di questo che si parla. Si parla di sputtanopoli, cioè della scomparsa del pudore, del suo brutale annientamento in un'orgia di pettegolezzo pubblico a mezzo stampa e TV che violenta la vita privata, che uccide la riservatezza, straccia la Costituzione all'articolo 15. Funziona come una rete sporcificante stesa per accalappiare il presunto reo che ho in ogni cittadino, in ogni colletto bianco, in ogni soggetto individuale, pubblico e privato, potenzialmente effettivamente coinvolto in inchieste giudiziarie o da esse sfiorato per mere ragioni di innocente contiguità. E insomma, Ferrara difende invece la legge. Bisogna ribellarsi a quest'andazzo, bisogna difendere senza alcuna remora morale, politica, civile e culturale una legge di regolamentazione delle intercettazioni che consente di indagare ma non di romanzare il crimine a uso di campagne anticricca e anticasta bene orchestrate e sceneggiate. Campagne che i giornali devono fare, se lo ritengano giusto, con le risorse del mestiere. E non con la buca delle lettere del pistarolo e del cronista giudiziario ben ammaestrato e rifocillato di nastri dall'autorità giudiziaria ideologicamente vicina o in cerca di gloria mediatica. Insomma, Ferrara dice basta questa sputtanopoli, perché è di questo che si parla, anche se le intercettazioni sono importanti. Ripeto, i giornali però sono in gran parte critici, anche giornali, ieri avevamo Vittorio Feltri alla Zanzara, anche lui è critico di questa legge. Ma insomma, trovate tantissimi commenti, come detto, anche gli appelli a resistere. Il procuratore Spataro di Milano dice alla stampa: la sicurezza ora non è più garantita per i cittadini. Questo sia chiaro ed è incredibile, una contraddizione tra ciò che questa maggioranza ha sempre sostenuto, cioè voler mettere al centro dei propri programmi la sicurezza, e quanto di concreto invece sta facendo, rendendo inutili le intercettazioni. Spataro parla di violazione della privacy che è un cavallo di Troia per giustificare scelte invece inaccettabili. C'è tutta la polemica anche di Napolitano, che a pagina 3 del Corriere, la replica molto stizzita, fa sapere Marzio Breda, quirinalista del Corriere, l'irritazione di Napolitano, nulla da aggiungere, i professionisti della richiesta al Presidente della Repubblica di non firmare sono numerosi, ma molto spesso parlano a vanvera, ha detto il capo dello Stato. Io non ho nulla da dire su questi argomenti, ho già detto, dunque non ho nulla da aggiungere. Anche se oggi Libero fa un'operazione e pubblica una notizia in prima pagina che certo tratta questo tema con un taglio diverso. È uno scoop di Libero, perché il giorno in cui il Senato approva con la fiducia l'intercettazione, Libero pubblica un'intercettazione e lo fa a dimostrare una tesi, dice il direttore Maurizio Belpietro: eccoci qua, vedete come spesso le intercettazioni in Italia vengono utilizzate in maniera sbagliata. La storia è quella di Trani. Quella di Trani, le intercettazioni che hanno coinvolto anche Berlusconi, Minzolini, che poi hanno portato tutte le intercettazioni di Berlusconi, che faceva pressioni sulle trasmissioni televisive, la G-Com, chiudete Santoro, insomma, quella vicenda lì. Ebbene, oggi Libero pubblica che cosa? Un'intercettazione. Non vi stupirete, la storia di Trani, il procuratore che indagava il direttore del TG1, intanto telefonava a una giornalista del Corriere del Mezzogiorno per svelare la inchiesta che stava facendo. Cioè il procuratore che ha sentito Minzolini il 17 dicembre 2009 a Trani telefonava appunto a una giornalista del Corriere del Mezzogiorno. E come è stato intercettato? Perché ha utilizzato il telefonino del colonnello della Guardia di Finanza Salvatore Paglino, che era intercettato per altre vicende, e quindi il procuratore, dopo aver sentito appunto il direttore del TG1 Minzolini, Il procuratore Ruggero, Michele Ruggero, ha raccontato a una giornalista l'andamento dell'interrogatorio del direttore del TG1 e a pagina 12 c'è l'intercettazione. Ecco qui, giornalista, pronto, ciao, dimmi, risponde il procuratore. Niente, volevo sapere se era tutto a posto, è stato contento l'ultimo, riferendosi a Minzolini. Tutti contenti, quelli quando vengono a Trani, vedono la cattedrale, le bellezze di qui, vedono le maniere, diciamo così, gentili, garbate, serie di come facciamo le indagini e quindi sai... Sì, ho capito, dice il giornalista, la giornalista. Ma tu l'hai incontrato tu o l'hanno incontrato gli altri? No, no, l'ultimo l'ho incontrato io. Sì, sì, dice il procuratore. Ah, anche l'ultimo, diciamo... allora io diciamo che hanno parlato con la finanza, scriviamo sul giornale. Ho scritto che hanno parlato con la finanza. Sì, sì, hai fatto bene. Dice il procuratore, che poi ripassa il telefono al colonnello della Guardia di Finanza Paglino. Ed ecco qui il colloquio tra la stessa giornalista e il colonnello della Guardia di Finanza Paglino. Quando fate qualche misura, qualcosa, non ti preoccupare, quando le facciamo ti avverto, te l'ho giurato, non ci credi? Io non penso prima di febbraio, ma quando sarà, sarai la prima a saperlo. Basta, non me ne frega più un cazzo, se mi girano le balle ti do pure l'ordinanza, guarda. Questa è la Guardia di Finanza che parla con la giornalista, cioè ti do anche l'ordinanza. E la giornalista, se ti fanno girare le balle ancora di più, dammi anche le intercettazioni, Ma tu ci provi sempre, dice il colonnello Paglino. Non c'è niente da fare, peggio di così non mi possono trattare, non è che mi possono mettere sulla croce. E allora se non ti possono fare nient'altro, dice la giornalista, dammi quelle cacchio di intercettazioni. Insomma, Libero dice, ecco, vedete, così i giudici fanno politica con le intercettazioni. Mentre dall'altra parte Il Fatto, che è uno appunto dei pochi giornali listati a lutto, in prima pagina fa un editoriale molto duro di Peter Gomez, vi faremo un sito così, parla di legge birmana, come in Birmania, dove la libertà di stampa, insomma, c'è un regime durissimo, i giornalisti, solo chi si qualifica giornalista non di regime viene condannato, quindi sì, è certamente un'esagerazione il paragone, ma Peter Gomez dice... siccome si può girare tutto sulla rete, e Federico Mello lo spiega a pagina 3, siccome Berlusconi, che voleva una norma ancora più dura, non sa navigare neanche su internet, come ha detto il suo fido Mario Valducci, allora ecco tutte le istruzioni per pubblicare sui siti web all'estero. Come aprire un sito, come insomma pubblicheremo tutte le notizie in maniera... che in Italia saranno illegali da pubblicare, le pubblicheremo aggirando tutto sulla rete. E allora, questo è il tema intercettazioni, ne parliamo alle 8.30, ha preso ampio spazio anche della rassegna stampa, d'altronde è così sui giornali, sprechi invece, soldi, costi, RAI, le consulenze RAI, quanto ci costa la casta, tutto questo dopo il traffico. In primo piano. Palazzo Chigi costa 4 miliardi. Oggi il giornale continua nell'operazione definita trasparenza e iniziata ieri la pubblicazione di tutti gli stipendi che pagate voi. Questa è la dicitura. Oggi la Regione Puglia e Palazzo Chigi, per l'appunto. Palazzo Chigi quella cifra costa. 4 miliardi. I capi più costosi, Bertolaso 280.000 euro, De Bernardinis 176.000 euro, insomma la protezione civile. Mentre la Regione Puglia, allora la Regione Puglia e i consiglieri guadagnano 117.000 euro, Nichi Vendola, il presidente, 167.000 euro, i dirigenti, anche qui c'è una lunga lista, ho visto quello che prende di più, Luca Celi, 130.000 euro, davanti ad Antonio Morgese, 124.000 euro, e Bernardo Notarangelo, 123.000 euro. Ma poi ci sono tutti i nomi, così come ci sono gli stipendi a pagina 4 dei super volumenti dei gran commi di Stato. Anche qui il presidente dell'autorità dell'energia Ortis 930.000 euro, li leggo dal giornale, il capo dell'ANAS Pietro Ciucci 750.000 euro, il presidente del Consip Danilo Broggi 570.000 euro, però c'è un asterisco che non si capisce, poi rimanda a che cosa non si sa. Capo di Fintecna, Maurizio Prato, 520.000 euro, ma ci sono tutti, le Poste Italiane, Consap, Enav, la RAI, Garimberti. E a proposito della RAI, la RAI anche oggi è sui giornali, devo fare anche un'eccezione, leggere settimanali, in questo caso l'Espresso, con Emiliano Fittipaldi, A pagina 46 l'Espresso dice: abbiamo messo mano ai conti segretissimi di quanto ci costano, di quanto ci costa la RAI. Gli stipendi, guardate, ci sono gli stipendi di tutti, Il presidente Garimberti, 448.000 euro. I vice direttori, Giancarlo Leone, il migliore, cioè quello che guadagna di più, 470.000. Fabrizio Del Noce, direttore Rai Fiction, 400.000 euro. Sorprendente invece Claudio Cappon, ex direttore generale voluto da Romano Prodi, che guadagna 600.000 euro senza avere alcun incarico. E Cappon dice: la RAI avrebbe due possibilità, o liquidarmi, dandomi dei soldi, che mi spettano, o assegnarmi la direzione di una controllata. Non ha fatto nulla e rischia anche un contenzioso. Quindi becco 600.000 euro e potrei anche fare causa. Questo lo traduco. Poi Milena Gabanelli, 150-180.000 euro l'anno. È quella che guadagna di meno, la giornalista meno pagata nelle liste dell'Espresso. Monica Setta, 200.000 euro. Giovanni Minoli arriva fino a 550.000. Bruno Vespa, 1.200.000 da esterno. Giovanni Flores, 450.000. Il contratto di Minzolini non è nella lista. Poi c'è Antonella Clerici, 1.500.000. Carlo Conti, 1.300.000 euro. Poi la famiglia Angela, Piero Angela e Alberto, guadagnano 750.000 Piero e 300.000 Alberto. Fabio Fazio 2 milioni, Serena Dandini 700.000 euro, Max Giusti 400.000, no, Max Giusti mezzo milione, Massimo Giletti 350.000 euro, Pippo Baudo l'immenso 900.000 euro. Tutto questo sull'Espresso, nel giorno in cui, tra l'altro, Lucia Annunziata, ex presidente della RAI, fa un'intervista al Fatto e dice: ma sono le consulenze, RAI, le consulenze sono il segreto inconfessabile. Le ho chieste a tutti quando ero presidente della RAI, non me le danno. Io vi ricordo www.contrattidiconsulenza.rai.it. Se vi volete divertire, fare delle grasse risate, andate lì. C'è un sito apposito nel quale la RAI scrive: visto che c'è la finanziaria del 2007 che ci impone di dare l'elenco delle consulenze, ecco qui l'elenco che vi diamo. Da 3 anni c'è scritto lavori in corso. Lavori in corso. Ed è tutto, dovrebbe essere dato per legge. Proprio nel giorno in cui c'è stata al Consiglio dei Ministri la sforbiciata agli stipendi RAI, come fa sapere Marco Mele a pagina 4 del Sole, il taglio del 20% per i collaboratori, limite massimo anche per i dipendenti. Ora c'è chi teme questo che possa portare in 3.000 a rischio posto in RAI, questo si legge anche a pagina 13 della Stampa. Insomma, Calderoli si è battuto molto e c'è riuscito in Consiglio dei Ministri a tagliare gli emolumenti dei collaboratori, limite massimo anche per i dipendenti dei collaboratori in RAI. C'è qualcuno che dice: non è che così si crea una concorrenza per l'altro, una concorrenza sleale, nel senso che se uno guadagna meno, se deve andare a fare l'ospitata in RAI, magari sceglie l'altra TV, non so, Mediaset. Scelta da voyeur, i 740 sono già pubblici. Caterina Balivo, 29 anni, fa un'intervista al Corriere, dice: questo è spiare dal buco della serratura, è puro voyeurismo. Quanto guadagna lei? Non glielo dico. Mi secca parlare di soldi, è volgare. E a proposito di soldi, di trovate ancora in segnalazioni conclusive, su tutti i giornali l'aggravamento della posizione dell'ex ministro Scajola. Casa Scajola ristrutturata dal fratello di Anemone. Lo leggo sul giornale, ma anche sul Secolo XIX. Scajola, la casa restaurata, ma non c'è fattura. Cioè il rischio, secondo gli inquirenti, c'è anche questa possibilità di ipotesi che non solo, come sappiamo, parte della casa potrebbe essere stata pagata da altri, la vicenda di tutti gli assegni, l'ipotesi di assegni, ma l'ipotesi è che sia anche la ristrutturazione sia stata fatta e sia stata fatta pagata da Diego Anemone. La prova contro Scajola: Anemone gli sistemò casa, anche a pagina 3 di Libero. Chiudo solo con l'ultima segnalazione dalla Stampa. Ce ne eravamo occupati qualche giorno fa, ricordate di quel giovane 14enne che ha scalato l'Everest a 8.000 metri? Chiedevamo: ma voi genitori permettereste una roba del genere a un 13enne di mandarlo sull'Everest, poi se succede qualcosa? Ebbene, sono tutti questi baby eroi che fanno le loro imprese in giro per il mondo. Abby dispersa nell'oceano. Leggo dalla stampa, a pagina 25, 16 anni, Abigail Abby Sunderland, californiana, sedicenne, voleva fare il giro del mondo in barca a vela. In barca a vela, tra le polemiche della gente che diceva: ma cari genitori, come permettete questo? Noi le auguriamo tutto il bene possibile, ma da due giorni è dispersa. Ha lanciato l'allarme, ma di lei non si sa più nulla, è svanita. 8:19 minuti, eccoci in diretta con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci qui. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, che dire? Iniziano i mondiali, sei pronta? Sono prontissima. Benissimo. Prontissima. Oggi grande giornata anche per il Sole 24 Ore, perché facciamo una grande manifestazione qua. A tutti quelli a cui non interessa, ho dato anche questa notizia. Incontri l'ambasciatore del Sudafrica. Oggi sì, però, oggi è una bella iniziativa. Poi la racconteremo nel corso della giornata. Però soldi e dintorni parliamo di tutt'altro. Tutt'altro argomento, naturalmente. Ma magari mi invento anche un modo per parlare di calcio, soldi e dintorni, prossimamente. Saremo tutti orecchi. Non sei in spasmodica attesa, già un brivido ha percorso la tua schiena, lo immagino. Allora, prevenire è sempre meglio di curare, questo è un detto che è valido per tutti i campi, ma è un detto particolarmente valido nell'ambito della sicurezza domestica. È un tema che affrontiamo spesso a Soldi e Dintorni. Qualche settimana fa, lo ricorderete, abbiamo raccontato per esempio quanti sono gli incidenti domestici che sono provocati da impianti elettrici nelle nostre abitazioni che non sono perfettamente a norma. Ce ne sono parecchi ancora all'interno delle abitazioni, delle famiglie italiane. È un quadro poco rassicurante, e a volte si ha proprio la percezione che molti non abbiano bene in testa quali sono i rischi se si usa male, ovviamente, la corrente elettrica, insomma se l'impianto che si ha in casa non è a norma. Oggi invece parliamo di gas, perché c'è una notizia. L'Authority per l'energia elettrica e il gas ha annunciato qualche giorno fa il rafforzamento di tutte le garanzie, di tutte le tutele di base della polizza assicurativa che viene fornita agli utenti di gas distribuito a rete. Questa è una polizza che paghiamo tutti quanti, perché abbiamo una piccolissima trattenuta nella nostra bolletta, circa 40 centesimi di euro all'anno, e oggi sono coperte con questa polizza circa 20 milioni di famiglie. Detto questo, poi vi racconterò magari proprio le novità e quali ambiti sono stati rafforzati, però abbiamo colto l'occasione per chiamare un esperto per ridarci qualche consiglio pratico per stare più tranquilli a casa con un impianto a gas. Michele Piccione, vicepresidente della CNA Installazioni e Impianti. Piccione, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei. Allora, la prima regola di base, da quello che apprendiamo, è che l'installazione, per esempio, la manutenzione, la modifica degli impianti a gas nelle nostre case deve essere fatta unicamente da installatori abilitati. Non è certo, come dire, un lavoro che possiamo fare con il fai da te, Piccione. Assolutamente sì. Questa è una cosa che ormai in Italia è già legiferata dal 1990 con la famosa legge 46, che ormai credo in molti conoscano. È chiaro che uno dei presupposti è proprio questo, quello che siano installatori iscritti alla Camera di Commercio, quindi che abbiano i requisiti per poter eseguire impianti a norma. E col tempo ci auguriamo anche installatori che siano anche qualificati da percorsi formativi, così come prevedono alcune normative europee. Ecco, come famiglie però quello che molto spesso non sappiamo è che alla fine di qualunque tipo di lavoro il tecnico deve sempre fornirci e rilasciarci la cosiddetta dichiarazione di conformità. Che cos'è, Piccione? Allora, la dichiarazione di conformità non è altro che praticamente quella che è la patente dell'impianto, nel quale poi l'impianto viene descritto. E c'è l'elenco dei materiali che sono stati utilizzati, il percorso delle tubazioni che è stato eseguito, ed è quello che poi nel tempo va conservato per poter dare memoria anche a chi in seguito dovesse andare a abitare quell'abitazione, per sapere dove è l'impianto e per non creare problemi in seguito. Piccione, in Italia ci sono praticamente 28 milioni e 400 mila utenze domestiche che usano il gas per riscaldamento, produzione di acqua calda e cottura di cibi. Di tutte queste utenze, secondo i vostri calcoli, i vostri rilievi, le vostre statistiche che immagino facciate, quante situazioni non sono a regola, a norma? Ma se bisognerebbe dare un numero, molte. Dai nostri rilievi siamo oltre il 95% di impianti non a norma. perché effettivamente le norme poi sono talmente stringenti, ecco, che creano una serie di problemi per l'esecuzione di impianti perfettamente a norma. Ma questo non è derivato solo da una carenza nella fase di installazione. Purtroppo ci sono molti utenti che creano problemi poi di impianti non eseguiti a norma, andando a modificare in maniera impropria questi impianti o affidandosi a installatori appunto non iscritti regolarmente. E quindi, per esempio, le problematiche più diffuse quali sono? Perché magari, non so, abbiamo acquistato una casa di recente, magari la famiglia che ci ha venduto la casa ci ha rilasciato la dichiarazione di conformità, ma in realtà poi scopriamo che l'impianto non è a posto. Perché? Quale potrebbe essere il problema più diffuso? Così magari ci mettiamo la testa, Piccione. Uno dei più diffusi è quello della mancanza di fori di ventilazione e areazione. Che molto spesso, anche quando poi ci sono, magari utenti li vanno a occultare o a mettere ostacoli davanti, perché magari il semplice accesso dell'aria crea problemi alla vita negli ambienti cucina o nelle case, ed è una cosa sbagliatissima, perché quei fori hanno proprio una delle funzioni maggiori di sicurezza. O la funzionalità delle cappe, dei camini, dove ugualmente la gente trascura di fare questo tipo di verifiche. La sostituzione dei tubi di gomma. Il tubo di gomma, che infatti glielo stavo dicendo io, perché credo che quello sia ancora più diffuso di problema. Certo, perché poi ci si dimentica dopo 5 anni che quel tubo di gomma va sostituito. Non si va a verificare la data stampigliata sul tubo della scadenza dei tubi, perché i tubi hanno proprio una vera e propria scadenza. Oppure far sostituire bombole da personale competente. O detenere in casa una quantità di bombole superiore ai 40 kg. Ecco, Piccione, poi si fa deposito di bombole, che è pericolosissimo. È pericolosissimo. Ne ho trovata un'altra nella quale mi sono subito identificata, perché ovviamente da oggi cambierò questa abitudine: non utilizzare il contatore del gas come mensola di appoggio. Esatto, adesso non è che ci metto sopra un mattone, però ogni tanto qualche cosina mi capita di appoggiarlo. E quindi sbagliatissimo. Utilizzare gli impianti di gas come conduttori per la messa a terra. Altra cosa assurda che viene fatta poi dalla gente. Perfetto. E allora, se non facciamo controlli da tanto tempo, magari poniamoci il problema, e soprattutto se siamo in procinto di fare una compravendita di un'abitazione, ricordiamoci anche di fare il controllo dell'impianto del gas. È obbligatorio, Piccione, poi la saluto perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, installare il rivelatore di gas nelle abitazioni? Al momento non è obbligatorio installare un rivelatore di gas, però è una cosa opportuna. Ma in questo momento quello che io invece riterrei molto più opportuno che l'utente facesse sono le verifiche annuali della sicurezza dell'impianto, e contestualmente a queste verifiche annuali delle verifiche di tenuta dell'impianto, per verificare che non ci siano perdite. Benissimo, buona giornata. Queste sono norme, e sono norme obbligatorie. Piccione, la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, grazie per giornata. I suoi suggerimenti. Oggi alle 12 a Salvadanaio, settimana sui mercati finanziari. Questa è stata migliore della precedente, quindi siamo contenti. Bene. Ciao. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, le intercettazioni. Ieri l'approvazione con fiducia al Senato del disegno di legge. Di questo parliamo oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? La domanda l'abbiamo presa dalla proposta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il sindacato dei giornalisti, che ha detto: listate a lutto i giornali, cari direttori, a partire da oggi. Io devo dire, oggi ce li ho davanti un po' tutti i giornali, so che Sky TG24 credo ha i telegiornali listati a lutto, poi c'è il Fatto Quotidiano, l'Unità è listata a lutto. Non mi sembra per ora altri. Franco Siddi, buongiorno. Buongiorno. Segretario dell'FNSI. Il lutto è il segnale, un'evidenziazione. Ciascun giornale nella sua autonomia poi ha scelto come. Certo. Repubblica ha fatto una pagina bianca. Una pagina bianca. I giornali regionali del gruppo Fineggi l'hanno listato invece a lutto. La Gazzetta del Mezzogiorno ha usato un altro suo simbolo. Il fatto è dare un'indicazione immediata, diretta, perché si abbia percezione evidente di cosa è accaduto, di cosa sta accadendo, di cosa può accadere per l'informazione. Senta, aprendo il sito anche dell'FNSI, ma noi l'abbiamo dato anche lei in audio qualche giorno fa, ha fatto questo paragone. Poi c'è sempre modo di dire, per carità, un paragone forse improprio, ma ci ricordiamo il 23, poco prima del regime, insomma, il fascismo. Ma io voglio dire, non si tratta di fare paragoni irriverenti. Indubbiamente però nel 23 è accaduto qualcosa di simile. Oggi credo che non si possa arrivare al 25, cioè all'instaurazione del regime. Credo non ci siano le condizioni, per fortuna, e gli strumenti, il grado di partecipazione, di attenzione, dell'informazione è differente, l'informazione viaggia nel mondo in tempo reale e tutti, quindi non credo ci siano degli anticorpi, che siamo, però ciò che è accaduto è esplicitamente, chiaramente, una riproposizione che è successa nel 23, nel 23, cioè, quello, del governo, quello che è successo le ricorda quello che è successo nel 23? Ma nel 23, se voi ricordate, il capo del governo, proprio i primi di luglio del 23, di fronte ad una serie di proteste, di segnalazioni, di notizie non piacevoli per chi stava al governo, un po' di soprusi e così via, aveva chiesto ai prefetti di fare delle verifiche su come i giornali trattavano il governo, e subito dopo aveva chiesto ai suoi ministri, quello della giustizia, più il vice del suo partito, di predisporre un disegno di legge, anzi un decreto legge, che punisse severamente gli abusi di questi giornali. Però le pare, come voi sapete, arrivò poi. Sì, dopo, certo, poi quella storia. Dopo. Ma le pare lo stesso paragone, voglio dire, fare un disegno di legge discutibile o meno sulle intercettazioni con un decreto legge che imbavagliò di fatto la stampa? No, intanto imbavagliò. Stiamo creando una situazione per cui non c'è bisogno tanto di fare un atto simile a quello a quanto accade tra il 25 e il 26, e cioè il divieto della libertà di stampa. Credo che questo non si arriverà, ma c'è sicuramente la creazione di una nuova morale pubblica attraverso una serie di atti, anche legislativi, fatti di norme intimidatorie, norme restrittive della libertà, diciamo questo, e chiaramente questa è una norma restrittiva della libertà di tutti, perché quando si incide sul diritto fondamentale dei cittadini a sapere, si privano le persone di un bene che è intangibile per loro. E qui si fermi passare qui. Tutto sì. Per fatto tecnico, per fatto normale. Resti con noi, ovviamente. Intanto la stanno ascoltando. Voglio salutare Piero Stellino. Buongiorno. Buongiorno. Editorialista del Corriere della Stella, di cui è stato anche direttore. E il senatore Francesco Pardi, dell'Italia dei Valori. Buongiorno. Buongiorno. Immagino oggi abbia passato una notte migliore rispetto a quella dell'occupazione del Senato. Sì, ma anche quella dell'occupazione è stata una buona notte. No, intendevo più comoda, magari, no? Ha dormito un po' più comodo. Però Piero Stellino, io vorrei iniziare da lei. Lei da ex direttore avrebbe listato a lutto, ha sentito Siddi dire, ricorda un po', non si arriverà certo al regime, ci sono gli anticorpi, ma ricorda un po' l'atmosfera del 23. Sì, penso anch'io che siamo all'atmosfera del 23, cioè quando grandi giornali, l'opinione pubblica più attenta, quindi diciamo così la parte più colta del paese, ritiene che la riservatezza personale debba essere sacrificata alla ricerca generalizzata di colpevoli di qualche cosa, beh, siamo effettivamente al fascismo, cioè questo è un paese fascista, fondamentalmente fascista. Con questo io non voglio difendere questa legge, che è fondamentalmente sbagliata soprattutto per quello che riguarda la stampa e l'informazione, cioè quella di condannare i giornalisti che pubblicano delle intercettazioni o addirittura punire con delle sanzioni pecuniarie gli editori è una cosa che non sta in piedi, perché i giornalisti pubblicano le notizie che hanno, bisogna vedere da dove vengono queste notizie e bisogna vedere in quale clima avvengono. Cioè ci si dimentica che l'articolo 15 della Costituzione tutela l'inviolabilità della corrispondenza, cioè il primato dell'individuo rispetto alla collettività. Se noi partiamo da questo presupposto, viviamo in un paese liberale. Se noi pensiamo che l'individuo non conti nulla di fronte all'interesse di questa astrazione ideologica che chiamiamo collettività, siamo al fascismo. Tra l'altro, Ostellino, lei cita l'articolo 15 della Costituzione, che oggi cita anche Giuliano Ferrara in un suo lungo editoriale. Ho letto l'articolo di Giuliano Ferrara. Difendere il pudore, cioè dire qui si sta parlando di sputtanopoli. Però, Ostellino, le voglio far ascoltare quello che ieri è successo al Senato, gli ha detto il senatore Gasparri, perché lei è critico in alcuni aspetti di questa legge, però è anche uno di quelli, devo dire, in minoranza dal punto di vista dei giornalisti, che ha difeso appunto il diritto all'inviolabilità della privacy su tutto, allo sputtanopoli la definisce oggi Ferrara. Ma sentiamo quello che ha detto ieri il senatore Gasparri al Senato. Sulla informazione, un maestro di giornalismo come Piero Ostellino ha scritto il 23 maggio sul Corriere della Sera: i processi in uno Stato di diritto si fanno in tribunale, non sui giornali, alcuni dei quali inclini per ragioni editoriali o politiche a fare strame della civiltà del diritto. Ha ragione Piero Ostellino e hanno torto coloro che vogliono solo fare il copia e incolla. Il copia e incolla, credo, dalle procure. Le fa piacere, Ostellino, essere, diciamo, stato inglobato così tra i sostenitori, insomma, di questa ma legge? Ma guardi, io penso sempre che chi mi cita avanza verso la cultura liberale, non sono io che regredisco chiunque sia che mi citi. E quindi cominciamo a stabilire che io sono un vecchio liberale, cresciuto alla scuola di Norberto Bobbio, di Alessandro Passerin d'Antrev, del liberalismo democratico di Torino, dell'Università di Torino. E quindi come tale io non mi preoccupo chi mi cita. Chi mi cita mi fa un piacere perché ovviamente cita un mio articolo. Ma non penso con questo di essere regredito perché chi mi cita è un ex missino o qualche cosa di questo genere, o comunque un rappresentante del governo di centrodestra. Semmai è lui che fa un passo avanti verso il liberalismo e non io che faccio un passo indietro. Allora, questo è un paese, questo mi scusi se continuo, questo è un paese in cui è sufficiente non essere d'accordo da posizioni squisitamente liberali, cioè di difesa dell'individuo, della sacralità e della inviolabilità dell'individuo, che è un principio liberale, è sufficiente dire questo per essere catalogati come berlusconiani o qualcosa di peggio. Questo è un paese intimamente fascista, lo ripeto, è intimamente fascista. Io non avrei listato a lutto il mio giornale, avrei criticato la legge, perché la legge è criticabile, perché questo bisogna fare. Un giornalismo serio questo fa. Altrimenti crea una posizione di antipolitica e di demagogia tra la popolazione che porta inevitabilmente al fascismo di piazza, cioè alla fascismo difesa della di gogna piazza. E alla difesa del linciaggio. Interessante questo, la difesa della gogna e del linciaggio. Senatore Pardi, qui la vorrei coinvolgere. Ha sentito Stellino, così come ha sentito Siddi. Secondo lei, anche come dice Siddi, ci sono quei sentori del 23 che però, insomma, dice Siddi, non ci faranno arrivare al 25 perché ora ci sono più anticorpi rispetto al passato? Io i paragoni col fascismo cerco sempre di non farli. Penso che noi siamo fuori dal consesso dei paesi civili per un motivo elementare, perché c'è al vertice del potere politico chi ha un possesso stringente, pervasivo e continuo sui mezzi di comunicazione. E se questo paese tende al fascismo, tende anche a uno strano fascismo, diciamo, prendo per buone le parole di Ostellino, perché oramai il popolo votante è in grandissima parte un popolo televisivo. Gli italiani che votano per un 30% minimo votano informati solo dalla televisione. Di chi è la televisione? Di chi sta al vertice del potere politico, che ce l'ha sua privata e poi controlla che la pubblica. Però Pardi, le voglio chiedere questo. Lei ha già letto oggi Libero? Che non so no, se non ho ancora letto niente. Non no, rientra... Però le voglio dire una cosa sulla questione della riservatezza. Perché la riservatezza al centro-destra non gliene frega nulla. Loro vogliono una riservatezza specialistica, cioè quella relativa allo sputtanamento del potere politico. Come avrebbe fatto Berlusconi a far passare una legge sulla prostituzione, che aveva pure cominciato a far passare in Senato, una volta che si è saputo che lui aveva un giro di donne a pagamento a Palazzo Grazioli nelle sue residenze estive? E come faceva a presentarsi come leader del Family Day una volta che se era chiaro che tradiva la moglie in tutti i modi e dappertutto? Ma, Queste cose devono rimanere segrete o essere conosciute? Allora, non importa nulla se hanno rilevanza. Allora le chiedo questo. La riservatezza del politico deve essere diversa da quella del deve essere normale. Diversa. Guardi, su questo, allora, prima di venire a lì, su questo credo che Ostellino abbia scritto è uno stato di polizia, Ostellino, quello che l'Italia dei Valori dice bisognerebbe scandagliare tutto della vita dei politici, far sapere tutto, far sapere le telefonate, eccetera. In genere spesso si dice chi non ha nulla da temere non ha nulla per cui essere intercettato. Presa la lettera, si può prestare a questa cosa. Su questo però Ostellino, so che lei ne aveva parlato. Io trovo straordinario che il signor Pardi dica che tra i compiti della magistratura c'è quello di stabilire se uno va a puttane. Ma andiamo, ma dove viviamo? Se il Presidente del Consiglio tradisce la moglie o va a puttane, il compito del giornalista è quello evidentemente di denunciarlo nel momento in cui fa la manifestazione a favore della famiglia. Cioè i giornalisti hanno una funzione importante, lo scrive Tocqueville nella Democrazia in America, cioè la libertà di stampa, la libertà di andare a vedere nelle tasche del potere è una libertà sacra nel mondo liberale, e questa è la funzione dei giornalisti. Ma non è la funzione delle intercettazioni di fornire ai giornalisti le prove se uno va a puttane oppure no. Ma dove cavolo viviamo? Ma insomma, c'è una sfera individuale che attiene alla libertà individuale e che non spetta alla magistratura, perché sennò siamo allo stato etico. Allora, la magistratura che si preoccupa dei nostri peccati, ma andiamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, senatore Pardi, replichi, insomma, Stellini è stato molto chiaro, i giornalisti devono, con il loro ruolo critico, informare, far sapere, perché la magistratura dovrebbe sapere se una persona va a puttane? No, no, non dico questo, dico che se il caso porta in un atto pubblico la conoscenza di fatti scomodi, i fatti scomodi non devono essere taciuti, soprattutto se si tratta dei politici. Ma perché scomodo? Perché la faccenda di Scajola, faccenda di Scajola e della casa pagata da Nemone non abbia rilevanza giuridica. È pagata da Nemone, adesso vede che però di sapere che Scajola si fa pagare la casa da un affarista. Ma scusi, ma lei vede che già trae una sentenza. No, non trago una sentenza. Lei ha stabilito che io non lo so, che Scajola si è fatto pagare la casa da Nemone. È evidente. Se l'è fatta pagare, l'ha dovuto perfino ammettere, quindi. Beh, ha detto in realtà la casa da Anemone. Guarda, non ha rilevanza giuridica. Dopo sembra che io difenda Scajola, che è l'unica cosa che non voglio fare e non faccio, ma difendo forse un principio di non stabilire già qui a Radio 24 alle 8:48 che Scajola si è fatto pagare la casa da Anemone. Non lo so, cioè magari è così, non lo so, ma lo accerteremo. È questo forse il metodo che critica Ostellino? O capisco male, Ostellino? Cioè, no, capisce benissimo. Cioè, la funzione del giornalismo è quella di andare a vedere in tasca del potere che cosa c'è, e cioè di denunciarlo, perché il potere deve rispondere all'opinione pubblica degli atti che attengono alla sua funzione di potere politico. Non deve rispondere all'opinione pubblica se va a puttane, ma soltanto se va a puttane e poi fa la manifestazione a favore della famiglia. E quindi ci sono delle responsabilità politiche di cui il potere politico deve rispondere, ma risponde all'opinione pubblica attraverso la stampa in un paese libero. Ma detto questo, tra l'altro, attraverso la magistratura, che non c'entra. Tra l'altro, Scajola ha pagato, e secondo me voglio dire, giustamente, cioè la stampa ha fatto bene a tirar fuori tutta questa vicenda, e Scajola ne ha pagato politicamente. Certo. Però io vorrei, senatore Pardi, arrivare a quello che oggi pubblica Libero, per l'appunto l'inchiesta di Trani, quella, la vicenda, insomma, in cui è stato anche coinvolto il direttore del TG1 Minzolini, convocato, poi le pressioni di Berlusconi, la Gcom, eccetera. Oggi Libero pubblica l'intercettazione di una giornalista del Corriere di Mezzogiorno che, poco dopo che il PM Michele Ruggero ha incontrato Minzolini e l'ha indagato e l'ha interrogato, chiama il colonnello della Guardia di Finanza Paglino, che è lì all'interrogatorio. Paglino gli passa il PM Michele Ruggero, che con la giornalista parla dell'interrogatorio. Tutti contenti sono stati, dice il PM Ruggero, quando vengono a Trani, vedono la cattedrale, vedono le maniere gentili di come facciamo le indagini. Ho capito, chiede la giornalista, ma l'hai incontrato tu l'ultimo? Lo hai incontrato, già gli dà del tutto, ma lo hai incontrato tu? Sì, l'ultimo, cioè Minzolini, l'ho incontrato io, scrivi pure così. Ecco. Beh, così non si fa. Non voglio mica uno stato di polizia. Non vorrei che Pausellino pensasse che io voglio lo stato di polizia. Così non si fa, non si deve fare, e i comportamenti censurabili devono essere censurati. La cosa che qui ancora non è stata detta e che mi preme dire è che non c'è solo la questione della libertà di stampa, che è gravissima e che noi rovesceremo recitando in Parlamento le intercettazioni e rendendole di pubbliche, perché finiranno nel resoconto stenografico, le intercettazioni proibite. C'è la questione del fatto che loro vogliono impedire le intercettazioni. Ricordatevi che vogliono passare la decisione dal singolo magistrato a un collegio di tre nel capoluogo distrettuale, il che significa che ognuno dei magistrati che dovrà fare l'intercettazione dovrà mandare un ufficiale di finanza con la domanda, quello dovrà aspettare la risposta e poi forse la risposta non arriverà e ce lo dovrà mandare il giorno dopo. Poi c'è la farsa dell'allungamento dopo i 75 giorni. Su questo io sono, senatore, totalmente d'accordo con lei, cioè ha un problema che c'è, quello che Ferrara chiama sputtanopoli, si è risposto, e su questo che c'è forse sarà d'accordo anche lei da un certo punto di vista, che questo tipo di problema un pochino c'è in Italia, si è risposto con una soluzione pessima. La questione del registro degli indagati è fondamentale. Un qualsiasi imputato d'ora in poi potrà far denunciare da un amico il magistrato che lo inquisisce e se ne libera. Quella è la regola di Bertoldo. Allora sentiamo un'ascoltatrice, Sara da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che è dice? Proprio grave quello che sta accadendo e oggi gli organi di stampa, secondo me, questo è il motivo del mio intervento, vi ringrazio, hanno un dovere verso noi cittadini, quello di difendere la giustizia e di dire perché questa legge è grave, non perché imbavaglia la stampa rispetto al pettegolezzo, ma è grave per quello che sta accadendo rispetto alla giustizia, alla magistratura, alle limitazioni. Cioè, che perché cosa limita, sono 70... limita l'argomento, cioè l'utilizzo delle intercettazioni, questa è la cosa più grave. Esatto, è questo, di questo si parla pochissimo, si continua a parlare altrettanto grave, per carità, dell'impedimento da parte della stampa, delle pubblicazioni, dell'una, dell'altra intercettazione, dei virgolettati, eccetera, eccetera, e non si parla di una cosa, si guarda il dito e non la luna, non si parla della cosa centrale. No, in realtà se ne parla, poi l'argomento è molto ampio, c'è chi appunto dice non ci sarà sui giornali, ma anche oggi il procuratore Spataro di Milano fa un'intervista alla stampa dicendo con questa legge la sicurezza non sarà più garantita e lo vogliamo dire ai cittadini perché l'uso dello strumento intercettazioni verrà molto limitato. Su questo, Ostellino, si può dire che ha un problema che c'è, perché in Inghilterra nessuno pubblicherebbe certe intercettazioni, si è risposto con una soluzione forse sbagliata da questo punto di vista? Ma sì, sulle tecnicalità si può discutere all'infinito, che questa legge non sia perfetta, che vada in qualche modo emendata, cambiata, che sia anche sbagliata, per carità, io non entro in queste tecnicalità perché non sono un giurista. Io dico semplicemente che quando si dice che la funzione della stampa è quella di difendere la giustizia, si dice una fesseria, perché la funzione della stampa è quella di difendere le libertà degli individui, cioè lo Stato di diritto. Ma signori, ma nel 1671 il Parlamento inglese ha approvato una legge che si chiama habeas corpus, sì, che consiste nel tutelare persino i diritti dell'inquisito e dell'accusato. Oggi molta gente in Italia è convinta che l'habeas corpus sia un purgante. Ma andiamo. Però, Ostellino, c'è anche, voglio dire, non vorrei citare il caso Watergate, cioè della stampa che invece ha denunciato. L'hanno fatto i giornalisti, appunto. Non l'ha fatto la magistratura. L'hanno fatto i giornalisti. No, ma in quel caso i giornalisti hanno fatto un'inchiesta che poi ha portato alla caduta del presidente. Ma è giusto che sia così. Ma è giusto che sia così. Cioè, quando l'uomo politico viola la libertà del prossimo, va contro quegli stessi principi che afferma e poi si comporta in un modo diverso, la funzione della stampa è quello di accusarlo, di metterlo sotto accusa di fronte all'opinione pubblica, perché l'uomo politico deve rispondere dei suoi atti politicamente innanzitutto e poi in secondo luogo, se ci sono degli atti che hanno un'attinenza giurisdizionale, cioè penale, ne risponde dopo la sentenza, ma non prima, perché prima c'è l'habeas corpus, c'è la tutela anche dell'inquisito, sì. Cioè non si può mettere sulla piazza la gente nel momento in cui c'è un atto di accusa, perché l'atto d'accusa può essere computato nel dibattimento in tribunale. Allora, ma se non siamo fuori da questa logica, siamo fuori dalla civiltà, nemmeno dalla civiltà del diritto, dalla civiltà. Allora io devo concludere, però Franco Siddi l'ho fatta per ascoltare, siamo partiti da lei, dalla proposta dell'FNSI, ecco. Però vogliamo chiudere, avete proclamato anche, detto credo il 9 luglio, il giorno della proclamazione finale alla Camera, uno sciopero. Sì, perché vogliamo segnalare in maniera rumorosa, con un silenzio appunto rumoroso, proprio la gravità di questa legge. A me spiace contraddire Ostellino, perché è un liberale, è un democratico, io veramente lo ammiro anche nelle sue posizioni, nella sua correttezza, ma vorrei solo dire una cosa: la privacy è diventata solo una scusa, qui a me non interessa, io condivido quasi tutto, la vita delle persone non va sbrecciata, certe intercettazioni devono stare fuori, forse avremmo dovuto fare meglio, qualche errore lo paghiamo per questo, ma la privacy non c'entra nulla. Noi abbiamo fatto due proposte, chiedo a Ostellino cosa ne pensa: l'udienza filtro, attraverso la quale accusa, difesa e il giudice scelgono, verificano gli atti, decidono quali atti vengono resi pubblici e da quel momento sono pubblicabili, sì, come capita in America, come capita ovunque, e se un giornalista pubblica atti che invece non dovevano essere pubblicati, ne paga, che riguardavano la dignità delle persone, ne paga le conseguenze, non ci sarà nessuno di noi lì a fare le barricate. La privacy, un giudice per la realtà dell'informazione che verifica se c'è un danno di privacy a delle persone che fanno un ricorso e si pronuncia entro 3 giorni obbligando a darne conto sui giornali, questa è la migliore sanzione, non è il carcere la sanzione, certo, non è la multa agli editori che vengono in redazione a comandare. Lei dice, guarda, il procuratore Spataro, io però devo chiudere, non c'è tempo per replicare su questo stellino. Il procuratore Spataro ancora oggi dice la privacy secondo me è un cavallo di Troia per il quale poi hanno fatto passare una legge indecente. Oh, mi fermo, grazie a tutti, Sara Sprefico in redazione, Peter Bescapè in regia. Se volete stasera alle 18.35 siamo ancora con la Zanzara, e se no domani mattina, no lunedì mattina, a lunedì.